Buonasera, mi chiamo Andrea Pozza, lavoro alla ripartizione patrimonio, ringrazio la biblioteca e specialmente Valeria che ci ha invitato qui questa sera a presentare questo lavoro. Qui con me, come appunto è stato detto, ci sono anche i miei colleghi, il dottor Ruttale, il direttore della ripartizione, la dottoressa Niederkofler, che insieme a me hanno curato questo libro. E questa sera faremo una chiacchierata insieme a un po' di diapositive e vi illustreremo questo mondo segreto. Ecco. È d'obbligo fare una piccola premessa. Risale al 1998, quando per effetto del decreto legislativo numero 495, circa 2500 particelle e catastali sono state trasferite dallo Stato alla provincia di Bolzano. Tra di esse vi erano circa 300 opere della fortificazione permanente dell'Alto Adige, dismesse dall'esercito italiano, in quanto non erano più utilizzate, non erano più in linea con la difesa della strategica dei confini. La ripartizione amministrazione del patrimonio, consegnataria degli immobili trasferiti, ha provveduto a rilevare e inventariare tutte queste particelle e su incarico della giunta provinciale è stata creata una commissione di esperti che si è occupata di individuare alcuni di questi immobili che dal punto di vista storico-culturale meritavano di essere studiati più profondamente. Questa commissione ha preso in esame tutti questi manufatti, che come ho detto sono circa 300, e all'interno di questi ha individuato queste 20 opere che appunto per i vari criteri, sia dal punto di vista dell'architettura, ma anche dal punto di vista storico e anche dal punto di vista di accessibilità per il pubblico, meritavano di essere tutelati e valorizzati. Questo gruppo di lavoro ha presentato alla Giunta una relazione che prevedeva la tutela di questi bunker e la Giunta si è espressa favorevolmente sulla scelta delle opere e ha espresso la volontà di utilizzare queste opere a scopo didattico e culturale e turistici. La Giunta inoltre si è espressa favorevolmente anche sull'opportunità di realizzare un progetto pilota, ossia di prendere una di queste opere e studiarla dal punto di vista per poterla aprire al pubblico. Quest'opera si trova a Fortezza e verrà inaugurata nella primavera del prossimo anno e sarà accessibile al pubblico. Adesso partirei con la presentazione vera e propria. Attorno alla metà degli anni 30, il peggioramento della situazione politica generale indusse gli stati maggiori delle principali nazioni europee a pensare alla costruzione di linee fortificate lungo le frontiere terrestri. L'Italia, constatando che le nazioni confinanti avevano iniziato a fortificarsi, in special modo la Francia con la linea Maginot, sentì l'esigenza di realizzare una sua linea difensiva. Ah, ok. Si sente meglio? Okay. Nel 1931 iniziò l'organizzazione difensiva delle Alpi mediante la realizzazione di sistemi formati da un insieme di capisaldi discontinui dislocati in prossimità del confine. Si vedono su questa piantina. Questo sistema difensivo, denominato Vallo Alpino del Littorio, costituiva un appoggio alle truppe di confine. A partire dal 1939, anche l'Alto Adige fu interessato dal lavoro di costruzione del Vallo Alpino, proseguimento della linea Ventimiglia Fiume che cingeva la catena alpina, che si può vedere sulla pianta. Il confine con la Svizzera era escluso perché ovviamente la Svizzera era neutrale. La costruzione del Vallo Alpino in Alto Adige proseguì fino all'ottobre del 1942. Il complesso difensivo prevedeva tre direttrici, che vediamo qui, l'Adige, l'Isarco e la Rienza-Drava. Ogni direttrice era suddivisa in tre sistemi difensivi. Il primo sistema, che era ubicato in zona di confine. Il secondo e il terzo sistema in zona arretrata, con il compito di fermare l'avanzata del nemico. Al momento della sospensione dei lavori in Alto Adige, avvenuta il 15 ottobre 1942 e ordinata da Mussolini su precisa volontà di Hitler, troviamo già numerosi sbarramenti ultimati o in via di ultimazione disseminati su tutto il territorio altoatesino. Questi sistemi difensivi non furono utilizzati durante la Seconda Guerra Mondiale, in quanto non erano ultimati, se non in alcuni casi sporadici, come ricovero di protezione per le truppe o come rifugi antiaerei per la popolazione. Solo con l'adesione dell'Italia al Patto Atlantico, avvenuta nell'aprile del 1949, l'esercito italiano tornò ad interessarsi delle fortificazioni permanenti. La dislocazione infatti di truppe sovietiche in Austria indusse lo Stato Maggiore a ripristinare alcune opere dell'ex Vallo Alpino presenti in Alto Adige e nel Bellunese, grazie anche ai contributi della NATO. Qui possiamo vedere, sono le fortificazioni in viola. In Alto Adige furono così riattivati gli sbarramenti di Passo Resia, Saltusio, Brennero, Colle Isarco Tennenovale, Val Casies, Fortezza, Rio di Pusteria, Sares Mantana, Perca, Val d'Aora, Anterselva, Braies, Dobbiaco, Landro Nord, Versacco, Prato la Drava e Passo Montecroce Comelico. Vediamo adesso che cos'è uno sbarramento. Uno sbarramento, per sbarramento si intende un complesso di opere fortificate, poste sotto un unico comando o cooperanti fra loro e destinato ad interdire con azione unitaria un'importante via di facilitazione. Via di facilitazione sono le strade, le ferrovie, le vie di passaggio, insomma. Andiamo adesso a vedere da vicino uno sbarramento, abbiamo preso quello di Fortezza. Qui vediamo come lo sbarramento di Fortezza è composto da 5 opere, da 5 bunker. La zona delimitata dalla linea rossa indica il territorio di competenza del plotone che presidiava queste opere e la zona interna, quella in giallo, indica la zona coperta dalle varie opere. Per ogni sbarramento da riattivare, nel corso degli anni 50 era stato predisposto un apposito progetto tattico-tecnico con gli interventi di ultimazione ed armamento delle opere già esistenti. Qui vediamo la mappa, sempre dello sbarramento di Fortezza, con le zone battute dalle armi. In rosso la zona battuta dalle mitragliatrici, in blu quella battuta dai cannoni e in viola quella mista, ossia coperta sia dai cannoni che dalle mitragliatrici. Abbiamo parlato di sbarramento, abbiamo parlato di opera di bunker, quindi adesso vediamo la descrizione del bunker. Il bunker è un manufatto che può essere realizzato sia in caverna che in calcestruzzo, atto ad ospitare un plotone presidio delle opere e composto normalmente da più postazioni per cannoni e mitragliatrici e locale di uso generale. Andiamo a vedere. Ecco qui abbiamo i due esempi di bunker esistenti in Alto Adige. Abbiamo il bunker in caverna, scavato quindi nella roccia, il primo in galleria, e invece il bunker realizzato interamente in calcestruzzo, che è quello sotto, e che poi viene ricoperto successivamente con terra vegetale. I manufatti in caverna, ossia il primo tipo, venivano prima scavati nella roccia, come si vede nella foto in alto, con l'ausilio anche di dinamite, e successivamente edificati internamente con pareti e volte in calcestruzzo. I monoblocchi, invece, o meglio definiti le opere in calcestruzzo, venivano totalmente realizzati con getti di calcestruzzo su più strati. Da questo spaccato, questo è uno dei bunker che c'era qui a Bolzano Sud, che è stato demolito per far posto alla nuova galleria, all'accesso alla nuova galleria, alla variante di San Giacomo. Come dicevo, da questo spaccato si può notare l'assenza di ferro d'armatura, ossia erano totalmente realizzati solo in calcestruzzo. Negli anni 30, infatti, il ferro era un elemento troppo prezioso da sacrificare nelle costruzioni. Il manufatto calcestruzzo, una volta ultimato, veniva ricoperto da terra vegetale e perfettamente mimetizzato nell'ambiente circostante. Le parti non coperte venivano mimetizzate con un apposito mascheramento che imitava la roccia. Questo è tutto cemento che, però, a vedere da fuori sembra roccia. L'abbiamo visti da fuori, adesso andiamo a vederli dentro. All'interno di ogni bunker, che sia in roccia o che sia in calcestruzzo, troviamo tre distinte zone. La zona dell'ingresso, la zona centrale che è destinata alla vita del plotone e la zona forse più importante che è quella destinata al combattimento. In questo caso abbiamo qui la prima zona, la zona dell'ingresso e della difesa vicina dell'opera. In questa zona troviamo il locale contatori. L'energia elettrica, che proveniva dall'esterno, giungeva all'interno del bunker attraverso un cavo interrato fino al locale contatori. Da qui partivano le linee di distribuzione verso l'interno del bunker. Eccole qui, qui le possiamo vedere meglio. In caso di blackout elettrico, i bunker erano dotati di lampade di emergenza, o più semplicemente di candele, e in taluni casi di un generatore diesel. Passiamo ora alla zona centrale, che in quanto era la zona più protetta, perché si trovava all'interno del bunker, era destinata alla vita del plotone e alla sua esistenza all'interno. Qui troviamo normalmente la camerata principale, che è dotata di brande trasportabili a più piani. Troviamo questo impianto, che è caratteristico in tutte le camerate. Infatti uno dei grossi problemi dei bunker è sempre stata la grande umidità interna. Ecco quindi che per far fronte a questo inconveniente le camerate erano dotate di questo impianto di deumidificazione che serviva almeno in parte ad asciugare l'aria. Vi assicuro che oggi questo impianto non è più in funzione e all'interno dei bunker si trova tantissima umidità. Sempre in questa zona troviamo il magazzino viveri. All'interno delle opere infatti non era prevista una cucina e quindi i militari dovevano alimentarsi con le classiche razioni K, custodite sotto chiave, anche perché nelle razioni degli anni 50 e 60, contrariamente a questa che è quella attualmente in uso nelle forze dell'esercito italiano, come dico, le razioni di quel periodo contenevano anche il cordiale e le sigarette, ecco perché erano sotto chiave. Ogni militare era equipaggiato con uno di questi bidoni, che conteneva l'acqua potabile della capacità di 12 litri e che doveva bastare per 8 giorni, il tempo massimo che un bunker avrebbe dovuto resistere. Troviamo poi anche la riserva di acqua non potabile, che troviamo questi contenitori che venivano riempiti dall'esterno. I contenitori hanno la capacità di 600 litri ciascuno e venivano riempiti dall'esterno tramite un tubo in ghisa che si vede nella foto. Quindi venivano riempiti solamente se il bunker, se c'era necessità di utilizzare il bunker, altrimenti sono rimasti vuoti. In alcuni bunker poi troviamo addirittura anche il lavatoio, che era alimentato sempre da questi serbatoi. Ogni bunker era dotato anche di un proprio presidio medico, attrezzato con una o più brande ed equipaggiato con questa cassetta di pronto soccorso. Le comunicazioni interne ed esterne erano assicurate da un apposito centralino telefonico che vediamo sulla sinistra, che metteva in contatto tra loro gli ambienti interni tranne una linea telefonica a cui erano collegati i classici telefoni da campo che vediamo sulla destra. Il centralino telefonico era inoltre collegato tramite una linea telefonica esterna ai centralini delle altre opere che facevano parte dello sberramento. In caso di interruzione della linea esterna, i collegamenti erano comunque assicurati grazie alla radio che equipaggiava ogni opera. Passiamo adesso all'ultima zona, che sicuramente è quella più interessante, che è la zona destinata al combattimento. In queste zone troviamo le camere di combattimento, che erano dotate di una piastra blindata in acciaio di protezione dello spessore medio di 15 cm. In questa sezione si vede proprio bene la piastra d'acciaio davanti alle armi che proteggeva i militari. Le blindature, concepite ai tempi della costruzione del vallo alpino, potevano essere equipaggiate con un cannone, come in questo caso, qui vediamo il 92 Mecker, In questa foto invece vediamo un cannone da 105 e sulla destra i colpi che erano custoditi nelle riservette munizioni, che erano delle nicchie ricavate sui lati dei cunicoli di collegamento. Blindature equipaggiate con appositi affustini erano predisposte per l'uso delle mitragliatrici, inizialmente le Breda 37 e Fiat 35 e successivamente, nell'ultimo periodo, la MG-59. Ogni camera di combattimento era equipaggiata con un apposito impianto di anti-anidride carbonica, dotato di maschere e filtri antigas. All'esterno della camera di combattimento, che era sigillata grazie a una porta ermetica, che vediamo qui, di derivazione sommergibilistica, troviamo una ventola che veniva azionata manualmente e che serviva a convogliare aria fresca all'interno dell'impianto tramite le maschere che erano indossate. Esternamente la feritoia della camera di combattimento era mascherata con appositi portelloni che in caso di combattimento venivano aperti. Ecco, direi che ora sapete tutti come è fatto un bunker, adesso passiamo a vedere i bunker più caratteristici che ci sono nella nostra provincia e che abbiamo inserito, nel libro. Iniziamo con la direttrice Resia e qui vedremo la zona di confine e l'ultimo sbarramento, quello di Bolzano, che forse è quello più conosciuto da voi e che rappresenta il terzo sistema difensivo della direttrice. A Resia troviamo due sbarramenti, quello di Pian dei Morti, realizzato a cavallo tra il 1936 e il 1938, su un altipiano sito a circa 2000 metri e in linea con le concezioni tattico-strategiche di quel periodo, e quindi divenuto obsoleto nel dopoguerra, e un secondo più moderno, realizzato sul fondo valle a presidio del valico di frontiera, e quindi molto importante anche nel periodo della Guerra Fredda. Lo sbarramento di Pian dei Morti è costituito da piccole postazioni in calcestruzzo monoblocco. Ecco, qui vediamo la tipica postazione che era dotata di una o al massimo due camere di combattimento, quindi erano molto piccole rispetto a quelle più moderne. Tutte queste postazioni avevano l'accesso posteriore, quasi sempre in trincea. Qui vediamo lo sbarramento che è completato con un lungo fossato anticarro che attraversa l'altopiano in tutta la sua larghezza. Il fossato, che è stato realizzato nel giugno del 1938, è stato costruito sopra una torbiera e diviso in tre tronconi. Nelle zone acquitrinose troviamo questo ostacolo particolare che si chiama dente di drago e sono praticamente dei pali conficcati nel terreno. Qui vediamo ce n'è uno rotto, quindi si vede proprio com'era fatto. La parte sporgente di questi pali, che è alta circa 50 cm, un metro, veniva rivestita in calcestruzzo e la sommità protetta con un cappellotto in ferro. In questa immagine e anche nella seguente si può notare come con il passare degli anni l'integrazione tra il bunker e la natura circostante abbia contribuito a rendere il mimetismo quasi perfetto. Qui vediamo un altro esempio di mimetismo. E qui vediamo l'interno di questi piccoli manufatti. Abbiamo il corridoio di accesso e una delle camere di combattimento. Le opere che non avevano il compito specifico di battere sui fianchi del fossato anticarro avevano le postazioni rivolte verso il fronte austriaco ed erano destinate alla protezione dello sbarramento. In posizione arretrata troviamo alcune casermette, ormai abbandonate, che erano destinate al ricovero dei militari. Da queste casermette si può avere una bellissima vista sul lago di Resia sottostante. Passiamo adesso allo sbarramento di fondovalle. Questa pianta ci mostra che tutte le opere di fondovalle, che sono praticamente le opere segnate in rosso, sono state riattivate nel periodo della Guerra Fredda, contrariamente a quelle dei Pian dei Morti che abbiamo visto adesso, che sono tutte segnate in nero. Quindi la differenza sulle anche le piante che vedremo dopo, le opere in rosso sono quelle utilizzate anche durante la Guerra Fredda e quelle nere invece sono opere che non sono mai state riutilizzate. Anche in questo caso troviamo un fossato anticarro che attraversa interamente la vallata e numerosi bunker dislocati sui due versanti. A completamento dello sbarramento troviamo inoltre alcune postazioni che erano destinate ad ospitare cannoni mobili o obici. Questo sbarramento abbiamo preso in considerazione tre opere. Qui vediamo la prima, la opera 16, che è costituita da un monoblocco in cemento, quindi un'opera interamente costruita esternamente in cemento, che si sviluppa su due piani e poi è stata ricoperta di terra vegetale. Qui vediamo le piante, piano sopra e piano sotto. Abbiamo poi l'opera 19, che è interamente scavata in roccia e occupa l'intera collina rocciosa dietro all'albergo Reschenhof e domina sulla sottostante strada statale. Qui possiamo, abbiamo alcuni particolari, possiamo vedere la scaletta La Marinara, che serviva come accesso alla torretta dell'osservatore e che era posta sempre sulla sommità dell'opera da cui ben si poteva controllare la situazione esterna, quindi sempre sulla parte più alta. Qui vediamo la pianta, è un'opera abbastanza grande. Passiamo all'opera successiva, l'opera 20, che è sicuramente l'opera più caratteristica di questo sbarramento. Qui vediamo la a sinistra in alto la caponiera che serviva alla difesa dell'ingresso e in particolare di alcune postazioni dei cannoni delle mitragliatrici ben mimetizzate. Anche in questo caso abbiamo piantina che dà le dimensioni, rende le dimensioni interne. E abbiamo un particolare in quest'opera, che è l'elemento che, come ho detto, caratterizza questo bunker. In fondo a uno stretto cunicolo, infatti, ci si imbatte in una roccia da cui sgorga la sorgente dell'Adige. L'acqua da qui, la vediamo sulla destra. L'acqua da qui veniva incanalata attraverso una canaletta e convogliata verso l'esterno, più o meno dove oggi troviamo il monumento che ricorda la sorgente, visibile a tutti quelli che vanno a fare la passeggiata. Scendendo lungo la strada statale, poco prima dell'abitato di Malles, sono ancora ben visibili alcuni monoblocchi non ultimati e quindi mai utilizzati. Uno in particolare risulta di una certa importanza, ed è il primo a sinistra, in quanto è stato oggetto di prove di tiro durante uno studio sulla resistenza dei materiali, condotto verso la fine degli anni 50 proprio dall'esercito italiano, che voleva verificare se questi bunker realmente avrebbero resistito o meno. Passiamo ora a Bolzano. Quello di Bolzano, sebbene non ultimato, è sicuramente lo sbarramento più grande di tutto l'Alto Adige. Si estende infatti dalle pendici di Castel Flavon, sopra il rione di Aslago, fino allo sperone roccioso del Gasto Flip, a Predonico. Le opere che compongono questo sbarramento sono ben 65. Adesso purtroppo alcune non esistono più perché sono state demolite. Comunque tutte queste opere sono in parte ultimate, nelle parti in calcestruzzo, ed alcune sono appena scavate. Lo sbarramento, come già detto, non è stato attivato durante la Guerra Fredda e quindi è rimasto come è stato abbandonato nel 1942. Sul fondovalle, nella conca di Bolzano e nella zona di Appiamo, troviamo i caratteristici monoblocchi in calcestruzzo a due piani. In questo caso non è stato coperto, si vede proprio come era realizzato. E in quest'altro caso invece, qui siamo sulla strada che va verso Appiano, si vede bene come il mimetismo è quasi totale dell'opera. Mentre all'interno degli speroni porfirici, su cui sorgono Castel Flavon e Castel Firmiano, troviamo numerosi bunker scavati nella roccia. Eccoli qui. Non essendo questi ultimi mai stati ultimati, si possono ancora oggi apprezzare le tecniche costruttive, quelle che abbiamo visto all'inizio quando parlavamo di come veniva costruito un bunker. Qui abbiamo alcuni particolari della camerata, si vedono bene le blindature in quanto non sono state poi coperte, quindi si vede bene proprio la blindatura in acciaio. E la foto su a destra è l'inizio di una postazione per cannoni. Passiamo ora alla direttrice Isarco, con i principali sbarramenti di questa direttrice, ossia vedremo il Brennero, Prato Isarco, Tenne Novale e quello di Fortezza. Al valico del Brennero, principale valico di confine altoatesine, troviamo uno sbarramento di fondovalle composta da 8 opere, di cui 5 sono state riattivate durante la Guerra Fredda. Con la costruzione dell'autostrada del Brennero, che ha seguito la costruzione dei bunker, quindi è venuta dopo, venne completamente rimosso il fossato anticarro e solo oggi ne rimane una piccola parte nella prossimità dell'opera 4. Le opere sono perfettamente mimetizzate all'interno del bosco e dalla strada statale è quasi impossibile scorgerle. Qui vediamo un'opera solo, l'opera 1, che è interamente realizzata in caverna, con i malloppi esterni realizzati in calcestruzzo, e si trova sulla parte destra del passo del Brennero. Quest'opera è stata scelta in quanto è ubicata in prossimità della sorgente del fiume Isarco. L'ambiente circostante risulta molto suggestivo, come si può vedere, specialmente durante il periodo invernale. L'entrata principale si trova infatti adiacente a una cascata, e per accedervi occorre attraversare il rio Stein. Ovviamente all'interno è molto umido, essendo proprio vicini al fiume. Qui vediamo alcuni particolari interni, un accesso alla camera di combattimento, la ventola dell'impianto antidiumidificazione, dell'impianto antianidride carbonica. Ecco, un'altra particolarità di quest'opera è che è costituita da questa postazione esterna per mitragliatrice che serviva anche come punto di osservatorio protetto. Questa postazione è ubicata su uno sperone roccioso in posizione dominante rispetto all'opera principale e per accedervi occorre salire una scalinata esterna di ben 84 scalini. Questa postazione offre naturalmente un perfetto posto di controllo sulle principali vie di facilitazione, la strada statale, la ferrovia e in questo caso anche l'autostrada. Scendiamo, arriviamo allo sbarramento di Colle Isarco e Tenne Novale, che è costituito da ben 28 opere, di cui solo 6 riattivate durante la Guerra Fredda. Durante questo periodo è stata realizzata anche un nuovo tipo di postazione, armato con un carro armato Sherman. Qui vediamo è la 4B. E questo tipo di postazione poi lo vediamo dopo, successivamente. Si trova in un punto molto strategico, questo sbarramento, in quanto è un punto di incontro tra la Valle Isarco, che in questo punto si restringe, e la Valle di Freres. Rappresenta quindi una specie di chiusa naturale. Qui lo vediamo bene da questa immagine. Vale la pena sottolineare ancora una volta, qui lo vediamo, che la costruzione dei bunker è antecedente rispetto a quella dell'autostrada e che quindi quest'ultima non rientra tra le vie di facilitazione presidiate dai bunker. Proprio qui a Colle Isarco, il bunker 6 è servito da basamento naturale su cui erigere uno dei pilastri di sostegno del viadotto autostradale. Eccola qui, questa è l'opera 6, si vede il viadotto. Quest'opera è realizzata su più piani e interamente scavata in caverna. Le due postazioni che si intravedono dominavano dall'alto sulla ferrovia e sulla strada statale. Qui abbiamo ancora alcune immagini dell'esterno. Abbiamo in alto a sinistra la caponiera che serviva come difesa dell'accesso che vediamo a destra e uno dei malloppi sotto il viadotto in cui era ospitata una mitragliatrice. Qui vediamo la pianta Questa pianta dà un'idea precisa dell'estensione dell'opera, che è una delle più grandi che troviamo in Alto Adige. Questo bunker era armato infatti con ben 5 cannoni controcarro e ben 8 mitragliatrici. Caratteristica di questo bunker, oltre ovviamente alle notevoli dimensioni interne, è costituita da un lungo cunicolo con ben 137 gradini, che la Cristina si ricorda molto bene, e che porta una camera di combattimento armata con un cannone, di cui ancora oggi è visibile l'affusto. È l'unico esempio che abbiamo ancora in Alto Adige dove è presente almeno una parte delle armi che equipaggiavano questo bunker. Oltre all'opera 6, qui a Collesarco, abbiamo inserito anche l'opera 3, che è ubicata sul lato opposto della strettoia rispetto all'opera 6 che abbiamo visto, e che come nel caso dei bunker di Bolzano è incompleta. E quindi l'abbiamo inserita perché anche qui si possono vedere ancora oggi le tecniche costruttive. In questo caso queste due foto mostrano la massicciata che serviva come basamento per la realizzazione della scalinata interna. All'esterno è visibile ancora lo scavo in roccia appena iniziato per la realizzazione di una delle camere di combattimento e si sono ancora visibili i fori che erano stati effettuati per alloggiare i candelotti di dinamite. Ecco qui l'opera 4 bis, che è un'opera un po' particolare. Infatti, per far fronte ad alcune lacune nella copertura dei settori di tiro, durante la Guerra Fredda sono state aggiunte alcune nuove postazioni, che erano costituite da un vascone di cemento in cui era alloggiato all'interno un carro armato Sherman. Questo carro, questo vascone, veniva poi coperto e mascherato mediante la realizzazione di una baracca metallica o di una baita in legno. Quindi dall'esterno sembrava una casetta simile a quella che si vede del casello ferroviario che c'è nelle foto. Ok, va bene. Scendiamo, arriviamo a Fortezza. Qui troviamo uno sbarramento arretrato, posto a difesa della conca di Bressannone e che apparteneva al terzo sistema difensivo del Brennero. Le cinque opere che vediamo, già ultimate agli inizi degli anni 40, sono state a loro volta reimpiegate durante la Guerra Fredda. Si tratta di tre opere in caverna e di due piccoli monoblocchi in calcestruzzo, tutti ottimamente mimetizzati. Dalla strada statale e dalla ferrovia è pressoché impossibile scorgerli e vederli. Qui vediamo un particolare di questi bunker. Questa è una cupoletta di aereazione che serviva per portare aria alle camere di combattimento e aveva questa protezione sopra che era la protezione anti-napalm. Come detto all'inizio, quest'opera è stata scelta come progetto pilota per l'apertura al pubblico. Quindi ho ritenuto opportuno inserire alcune immagini in anteprima. Qui vediamo l'impianto originale degli anni 60, che ancora oggi è perfettamente funzionante. Praticamente noi abbiamo dato corrente e dopo 10 anni che il bunker era chiuso si è illuminato tutto, non c'era neanche una lampadina bruciata. Passiamo ora all'ultima direttrice, la direttrice Rienza Drava, che delle tre presenti in Alto Adige è quella più armata, in quanto l'intelligence militare si attendeva una possibile avanzata delle truppe sovietiche proprio attraverso il valico di Pratola Drava e quindi lungo la Pusteria. Qui troviamo il maggior concentramento di sbarramenti riattivati durante la Guerra Fredda, proprio per questo motivo. Tralasciamo il primo sbarramento, quello di Pratola Drava, che non presenta opere particolarmente significative, e vediamo il secondo sbarramento, quello di Versacco, dove tutte le opere del fondo valle sono state ripristinate durante la Guerra Fredda. Qui troviamo due opere caratteristiche un po' particolari. Io ho inserito una foto aerea dove si vedono alcuni bunker dello sbarramento, protezione dell'abitato di Versacco. Anche in questo caso abbiamo lo sbarramento anticarro, qui siamo proprio in prossimità del fiume Drava. E vicino a questo sbarramento troviamo la prima opera che abbiamo preso in considerazione, che è l'opera 2021. Andiamo a vederla all'interno. In quest'opera le postazioni si trovano nella parte centrale del manufatto e sono posizionate su più livelli. Particolare che sono raggiungibili dall'esterno solamente tramite un lungo corridoio molto stretto, lungo circa 50 metri. Questo cunicolo rappresenta anche l'unico accesso all'opera. Ovviamente il bunker, avendo un unico solo accesso, è provvisto anche di un'uscita di sicurezza che si raggiunge tramite questa scaletta alla marinara e si trova nella sommità più alta della fortificazione. Vediamo ora l'altra opera caratteristica, l'opera 23, che è costituita da un piccolo monoblocco in calcestruzzo. E la peculiarità di quest'opera è costituita dal mascheramento, che è l'unico esempio che abbiamo qui in Alto Adige. Il bunker infatti è mimetizzato all'interno di un fienile, che quindi ben si camuffa con gli edifici circostanti. Qui lo vediamo nella versione invernale. Chiaramente i vandali col tempo hanno divelto alcune assi e quindi non si presenta più come era agli inizi. Però insomma dà un'idea di come era fatto il mascheramento. Lo sbarramento di Passo Montecroce Comelico è situato a cavallo della strada statale 52, la strada carnica, ed è proprio sul confine tra l'Alto Adige e il Bellunese. Il suo compito strategico era quello di impedire la penetrazione del nemico verso la pianura veneta. Qui anche qui vediamo un'opera solo, l'opera 3, che si trova vicino all'albergo del Passo Montecroce. Anche questa è interamente realizzata in calcestruzzo, su un solo piano, ed è relativamente piccola, però tuttavia ben conservata. Quest'opera, nonostante le ridotte dimensioni, presenta tutte le caratteristiche delle opere maggiori. Qui abbiamo due immagini interne, l'ingresso che era protetto da un'ulteriore cancellata e una postazione dei cannoni con il classico blindamento. Qui abbiamo ancora alcuni particolari. Tre particolari sempre dell'impianto antianidride carbonica e una nicchia che serviva per alloggiare le lampade d'emergenza che abbiamo visto all'inizio. Scendiamo, arriviamo a Dobbiaco, abbiamo lo sbarramento di Dobbiaco che è stato progettato all'inizio del 1939 con prevalente funzione anticarro, a protezione ovviamente della conca di Dobbiaco. Questo sbarramento apparteneva al raddoppio del primo sistema difensivo. Sei delle nove opere esistenti, come si può vedere, sono state reimpiegate durante la Guerra Fredda. Qui abbiamo preso in considerazione l'opera 3, che anche questa è ad un piano, è realizzata in parte in calcestruzzo e in parte è scavata nella roccia, ed è ubicata nei pressi della sorgente del fiume Drava, a protezione del lungo fossato anticarro che tagliava l'intera vallata, che ancora oggi si vede, ci sono cresciuti gli alberi, comunque sotto c'è il fossato anticarro. L'opera è quasi del tutto ultimata, ad eccezione dell'ultima parte, che è stata adibita a magazzino e che è stata lasciata allo stato grezzo. Quindi anche qua si può vedere la parte ultimata e la parte ancora in costruzione. si vede la parte destra dove ci sono tutte le infiltrazioni di umidità. Non essendo stata ultimata e quindi non essendo stati costruiti i malloppi esterni, durante il periodo della Guerra Fredda è stato deciso di sostituire questi malloppi con delle torrette di carro armato che erano state enucleate dai carri armati Sherman e posizionate sopra queste botole, e vi si accedeva direttamente da sotto dal bunker. Ovviamente le torrette oggi non ci sono più, sono rimaste solo le botole, e anche in questo caso, come nel caso dello Sherman che abbiamo visto prima, le torrette erano coperte con delle costruzioni in legno che sembravano da fuori, sembravano delle baite. Oltre alle torrette dei carri armati, sono state messe anche alcune torrette metalliche e poi rivestite, che servivano per ospitare le mitragliatrici. Passiamo adesso a un altro sbarramento. Qui siamo di nuovo nel 1939. Lo studio relativo alla sistemazione difensiva della direttrice della Valpusteria prevedeva alcuni sbarramenti arretrati in Valle di Landro che servivano a impedire l'accesso dalla Pusteria a Lampezzano. I lavori iniziarono nel dicembre dello stesso anno con lo sbarramento di Landro Nord, che vediamo qui, che è proprio in prossimità del lago di Dobbiaco. Durante la Guerra Fredda sono state reimpiegate le opere 1, 2 e 4. Qui abbiamo un estratto di mappa servito per fare gli espropri di queste opere. Ho messo dentro questa piantina perché da qui si vede bene come l'opera 2, che troviamo sulla destra, sia stata realizzata a cavallo della strada statale Alemagna, che collega Dobbiaco a Cortina. L'opera infatti è stata concepita come presidio di sbarramento della strada statale stessa. Qui la vediamo meglio. Ai due lati della strada troviamo i malloppi in calcestruzzo che contengono le camere di combattimento. L'opera si sviluppa su due piani a valle e un piano a monte. Le due parti del bunker sono collegate fra loro da un lungo cunicolo sotterraneo. Sopra questo cunicolo, esattamente sopra, passa. Allora, come stavo dicendo, l'accesso principale di quest'opera si trova lungo la traccia dell'ex ferrovia Dobbiaco-Cortina, quindi lungo la passeggiata, oggi utilizzata come ciclabile, proprio sulla sinistra, percorrendo la ciclabile in direzione di Cortina, si può ancora vedere la porta, ancora oggi. Abbiamo poi un altro sbarramento in Valle di Landro, lo sbarramento di Landro Sud, che è composto da 6 opere, 3 delle quali sono state ultimate, almeno per quanto riguarda le colate in calcestruzzo, e le altre sono rimaste a livello di scavo, nella roccia. L'opera 5 è interamente realizzata in calcestruzzo e si trova nelle immediate vicinanze del forte di Landro. Eccola qui. L'opera infatti è proprio collegata al forte austriaco di Landro, eretto negli anni a cavallo tra il 1880 e il 1890, quale opera difensiva collegata con il forte forse più famoso, quello di Prato Piazza. Il forte aveva il compito di impedire eventuali infiltrazioni da Cortina verso Dobbiaco, quindi in questo caso vediamo proprio come nella Prima Guerra Mondiale abbiamo le infiltrazioni da Cortina verso Dobbiaco, e poi nella Seconda Guerra Mondiale, nella Guerra Fredda, al contrario, da Dobbiaco verso Cortina. Scendiamo lungo la Pusteria, arriviamo a Val d'Aora. Questo sbarramento è stato progettato nel 1940 ed è situato alla confluenza tra la Pusteria e la Valle di Anterselva. Questo sbarramento abbiamo preso in considerazione l'opera 9, che si trova dietro all'abitato di Val d'Aora di Mezzo. Qui è facilmente riconoscibile perché è ubicato sulla somma della collina che si vede e mimetizzato dalla vegetazione. Tutta la vegetazione che vedete, tutto il bosco che vedete, copre interamente il bunker. vediamo la sua, l'interno. Quest'opera è interamente realizzata in calcestruzzo, quindi la collina è artificiale, ed è completamente ultimata in ogni sua parte. Nonostante si sviluppi su un solo piano, l'opera è piuttosto estesa e dotata di una notevole potenza di fuoco. All'interno ospitava infatti 5 cannoni contro carro e 5 mitragliatrici. Qui vediamo alcuni particolari esterni, la cupoletta che abbiamo visto prima, l'accesso, una delle feritoie. La valle di Anterselva era ritenuta la più importante delle direttrici secondarie della Valpusteria. Lo studio del marzo 1939 prevedeva uno sbarramento a Passo Stalle con 7 opere, uno sbarramento intermedio al lago di Anterselva con 4 opere e uno sbarramento arretrato a Sottocosta con 6 opere. Nel 1940, con l'aggiornamento del progetto originario, si realizzarono 5 opere di tipo medio, resistenti ai grossi calibri, per lo sbarramento di Anterselva di Mezzo, quello che prendiamo in considerazione. La linea di sbarramento, che si trova appunto nei pressi dell'abitato di Anterselva, è perfettamente conservata ancora oggi ed è costituita da un fossato anticarro e dalle opere 1, 2 e 4 a sua difesa. Qui vediamo il fossato anticarro che proprio chiude tutta la valle. Questo l'abbiamo preso in considerazione perché costituisce un valido esempio della strategia militare adottata nel periodo degli anni 40. Questa strategia prevedeva infatti il blocco delle vie di comunicazione tramite un fossato anticarro allo scopo di fermare l'avanzata delle colonne nemiche. L'opera 1 e 2 sono quasi uguali e sono interamente realizzate in calcestruzzo e ricoperte da terra vegetale. Entrambe le opere si sviluppano su due piani. Questa è l'opera 2. Qui abbiamo alcuni particolari esterni, una cupoletta dell'osservatore che era sempre, come dicevo, nella parte più alta del bunker, una delle postazioni perfettamente mimetizzate. Qui abbiamo di nuovo alcuni particolari interni che poi sono uguali in tutte le opere, il quadro contatori, la riserva dell'acqua non potabile, la camera di combattimento. Ecco, in questo caso abbiamo un contenitore che si vede sulla destra, che era praticamente il contenitore dove venivano messe dentro le lastrine usate delle mitragliatrici. Siamo ormai alla fine. Con il crollo del muro di Berlino nel 1989 e il conseguente crollo dell'Unione Sovietica, cessò definitivamente l'importanza strategica e di conseguenza l'interesse da parte dell'esercito per le fortificazioni di confine. Nel 1992 iniziò la completa dismissione di tutte le fortificazioni presenti in Alto Adige e nel Friuli Venezia Giulia. La dismissione fu portata a termine nel 1993. Furono rimosse tutte le armi e le opere furono chiuse e sigillate. Tutti gli armamenti smontati dalle opere sono stati portati alla caserma dei Cobelli di Brunico e successivamente distrutti. Da qui per 10 anni non è successo niente e poi dopo 10 anni noi abbiamo riaperto le opere, siamo rientrate e abbiamo scoperto questa storia affascinante.